211. Fegato alla cacciatora. Se il fegato fosse grammi 300 circa, trinciate 3 grosse cipolle e tenetele in molle nell'acqua fresca per un'ora o due. Sgrondata dall'acqua, gettate la cipolla in padella per asciugarla. Asciutta che sia, versateci il lardo per friggerla e quando avrà preso il color marrone, uniteci il fegato tagliato a fette sottili. Lasciatelo soffriggere alquanto, frammisto alla cipolla. Versate poi nella padella poco meno di mezzo bicchiere di vino rosso buono e dopo 5 minuti, muovendolo sempre, servitelo condito con sale e pepe. Non è piatto per gli stomachi delicati.